ad alta voce. Alba Rohrbacher legge Agostino di Alberto Moravia. Erano giunti sul lungomare e camminavano a piedi nudi sul pietrisco aguzzo, tra le aride aiuole. Agostino portò la sigaretta alle labbra e aspirò un po' di fumo, rigettandolo subito fuori senza inghiottirlo. Berto rise con disprezzo. «Questo lo chiami fumare?» esclamò. «Non si fa mica così, guarda!» Prese a sua volta la sigaretta, aspirò lungamente girando attorno a quelle sue oziose e torve iridi celesti, quindi spalancò la bocca e l'avvicinò agli occhi di Agostino. La bocca era vuota, come egli poté vedere, con la lingua che si arricciava in fondo al palato. «Ora guarda», disse Berto chiudendo la bocca, e soffiò in faccia ad Agostino una nuvola di fumo. Agostino tossì e rise trepidamente. «Prova ora», soggiunse Berto. Passò accanto a loro un tramvai, fischiando e sventolando le tendine al vento. Agostino aspirò una nuova boccata e con uno sforzo penoso inghiottì il fumo. Ma il fumo gli andò di traverso ed egli si mise a tossire, assai lamentosamente. Berto gli riprese la sigaretta e, dandogli una gran manata sulla schiena, disse «Bravo, si vede che sei un gran fumatore!» Dopo questo esperimento camminarono in silenzio. Gli stabilimenti si seguivano agli stabilimenti, con le loro file di cabine verniciate di colori chiari, i loro ombrelloni sbilenchi, i loro archi melensamente trionfali. La spiaggia, tra una cabina e l'altra, appariva gremita, ne giungeva un brusio festivo, anche il mare scintillante era affollato di bagnanti. «Dov'è il bagno Vespucci?» domandò Agostino affrettando il passo dietro al suo nuovo amico. «È l'ultimo!» Agostino si domandò se non gli convenisse tornare indietro. La madre, se non era andata in pattino, certamente lo cercava. Ma il ricordo dello schiaffo soffocò quest'ultimo scrupolo, che quasi gli parve, andando con Berto, di proseguire non sapeva che oscura e giustificata vendetta. «E il fumo dal naso?» gli domandò ad un tratto Berto, fermandosi. «Sai cacciarlo?» Agostino scosse la testa. E quello, stringendo tra le labbra la sigaretta, ormai ridotta ad un mozzicone, ne aspirò il fumo e lo rigettò dalle narici. «Ora», soggiunse, «mi farò uscire il fumo dagli occhi. Tu, però, mettimi la mano sul petto e guardami negli occhi». Ignaro, Agostino si avvicinò a lui, gli mise la palma sul petto e guardò in quelle pupille, aspettando di vederne uscire davvero il fumo. Ma Berto, con subitanea perfidia, gli schiacciò con forza la sigaretta accesa sul dorso della mano e, gettando via il mozzicone, fece un salto di gioia, gridando «Oh, che scemo! Ah, che scemo! Si vede proprio che non sa nulla!» Il dolore aveva quasi accecato Agostino. Il suo primo movimento fu di gettarsi su Berto e percuoterlo. Ma l'altro, come se lo vide correre incontro, si fermò, strinse i pugni contro il petto e con due soli colpi allo stomaco lo fece rimanere senza fiato e quasi tramortito. «Pochi discorsi con me», disse con cattiveria. «Se vuoi, avrai la tua parte». Agostino, furioso, si scagliò di nuovo contro di lui, ma si sentiva debolissimo e predestinato ad essere sconfitto. Questa volta Berto gli afferrò la testa e, prendendola sotto l'ascella, quasi strangolò Agostino, il quale cessò affatto di dibattersi e supplicò con voce soffocata che lo lasciasse. Berto lo liberò e, fatto un salto indietro, si fermò su due piedi mettendosi di nuovo in posizione di combattimento. Ma Agostino aveva sentito scricchiolare le vertebre del collo e, più che spaventato, era stupefatto dalla straordinaria brutalità del ragazzo. Gli pareva incredibile che a lui, Agostino, cui tutti avevano sempre voluto bene, ora si potesse fare un male così deliberato e spietato. Soprattutto questa spietatezza lo stupiva, e lo sgomentava come un tratto affatto nuovo e quasi affascinante a forza di essere mostruoso. «Io non t'ho fatto alcun male», disse con voce ansimante. «Ti ho dato le sigarette e tu...» Egli non finì la frase e le lacrime gli riempirono gli occhi. «Pianti in tasca!» gridò Berto sarcastico. «Le rivuoi le tue sigarette? Non so che farmene delle tue sigarette. Riprendile e torna dalla mamma!» «Non mi importa», disse Agostino sconsolato, scuotendo il capo. «Ho detto così per dire. Tienile pure». «E allora andiamo», disse Berto. «Siamo arrivati». Agostino, portando alla bocca la scottatura che gli bruciava forte, levò gli occhi e guardò. Sulla spiaggia in quel punto non c'erano che poche cabine, 5 o 6 in tutto, sparse l'una a grande distanza dall'altra. Erano cabine povere, di legno grezzo. Tra l'una e l'altra si scorgeva la spiaggia e il mare, egualmente deserti. Soltanto alcune popolane stavano all'ombra di una barca tirata a secco, quali in piedi, quali sdraiate sull'arena, tutte vestite di certi antiquati costumi neri dalle mutande lunghe orlate di bianco, indaffarate ad asciugarsi e ad esporre al sole le membra troppo bianche. Un arco dall'insegna dipinta di azzurro portava la scritta «Bagno Amerigo Vespucci». Una bassa baracca verde affondata nella sabbia indicava la dimora del bagnino. Dopo questo bagno Vespucci, il litorale, sprovvisto così di cabine sulla spiaggia come di case sulla strada, continuava a perdita d'occhio, in una solitudine di sabbia battuta dal vento, tra lo scintillio azzurro del mare e il verde polveroso della pineta. Dalla strada, le dune, più alte in quel punto che altrove, nascondevano tutto un lato della baracca. Poi, come salirono in cima alle dune, si scoprì una tenda rappezzata e sbiadita di un rosso rugginoso, che doveva essere stata tagliata in una vecchia vela di paranza. Questa tenda era legata per 2 capi a 2 pertiche conficcate nella sabbia, e per gli altri 2 alla baracca. «Quella è la tana», disse Berto. Si vedeva, sotto la tenda, un uomo seduto presso un tavolinetto sbilenco, in atto di accendersi un sigaro. 2 o 3 ragazzi circondavano l'uomo, distesi sulla sabbia. Berto spiccò una corsa e cadde a sua volta ai piedi dell'uomo gridando «Tana!». Un po' imbarazzato, Agostino si avvicinò al gruppo. «E questa è Pisa!», disse Berto indicando Agostino, il quale si meravigliò di questo soprannome datogli con tanta rapidità. Non erano ancora passati 5 minuti che aveva detto a Berto di essere nato a Pisa. Agostino si distese anche lui in terra. La sabbia in quel luogo non era così pulita come sulla spiaggia. Scorze di cocomero, schegge di legno, cocci verdi di terraglia e ogni sorta di detriti vi apparivano commisti. Qua e là l'arena era crostosa e dura per le secchiate d'acqua sporca buttate dalla baracca. Agostino osservò che i ragazzi, 4 in tutto, erano vestiti poveramente. Dovevano, come Berto, essere anche loro figli di marinai e di bagnini. «Era il bagno Speranza», disse Berto tutto d'un fiato, sempre parlando di Agostino. «Dice che vuol giocare anche lui a guardie e ladri. Ma il gioco è finito, no? Te l'avevo detto io che il gioco era finito!» Si udì a questo punto gridare. «Non vale! Non vale!» Agostino guardò e vide venire correndo dal mare un gruppo di ragazzi, le guardie probabilmente. Il primo era un ragazzotto di forse più che 16 anni, atticciato e tozzo in costume da bagno. Poi veniva, con grande meraviglia di Agostino, un negro. Terzo un biondo, che dal portamento e dalla bellezza del corpo parve ad Agostino di origine più signorile degli altri. Ma come si avvicinò, il costume tutto rotto e bucato e una certa elementarità dei tratti nel bel viso dai grandi occhi cerulei lo palesò anch'esso popolano. Dietro questi primi tre seguivano altri quattro ragazzi, tutti della stessa età, tra i 13 anni e i 14. Il ragazzotto nerboruto era di gran lunga il più vecchio e stupiva a prima vista che si mescolasse a quella compagnia fanciullesca. Ma il suo viso color del pane poco cotto, dai tratti inespressivi ottusi, forniva, con la sua brutale stupidità, la ragione di questo inconsueto sodalizio. Egli non aveva quasi collo, e il suo torso liscio e senza un pelo era largo alla cintola e ai fianchi come alle spalle. «Tutti sei nascosti in una cabina!» gridò con violenza Berto. «Prova a negarlo! Ora i patti escludevano le cabine!» «Non è vero», rispose Berto con uguale violenza. «Di tu, Pisa», soggiunse rivolto ad Agostino. «Non mi sono affatto nascosti in una cabina. Si stava io e lui dietro l'angolo della baracca dello Speranza. Vi abbiamo visti passare, non è vero, Pisa?» «Veramente», disse Agostino, incapace di mentire, «tu ti sei nascosto nella mia cabina?» «Ecco, vedi?» gridò l'altro scuotendo il pugno sotto il naso di Berto. «Ti schiaccerai la testa, bugiardo che sei!» «Spia!» gridò Berto in faccia ad Agostino. «T'avevo detto di restare dov'eri, dalla mamma da tornare!» Era pieno di una violenza incontenibile, bestiale, che oscuramente meravigliava Agostino. Ma nel gesto che fece per rimproverarlo, una delle scatole di sigarette gli cadde fuori dalla tasca. Egli fece per raccoglierla, ma il ragazzotto fu più lesto di lui e, chinandosi in fretta, l'afferrò e, agitandole per l'aria, trionfante. «Sigarette, eh?» gridò. «Sigarette!» «Dammele!» gridò Berto avventandosi furioso. «Sono mie! Me l'ha regalate Pisa! Dammele o ti...» L'altro fece un passo indietro e aspettò che Berto fosse a tiro. Come gli fu vicino, prese tra i denti la scatola delle sigarette e cominciò a martellargli metodicamente con due pugni lo stomaco. Poi, con uno sgambetto, lo fece stramazzare a terra. «Dammele!» gridò ancora Berto rotolando nella sabbia. Ma quello, con un riso ottuso, gridò. «Ne ha delle altre! Sotto, ragazzi!» E tutti insieme i ragazzi, con un accordo che stupì Agostino, si buttarono su Berto. Per un momento, ai piedi dell'uomo che continuava a fumare appoggiato al tavolino, ci fu un aggrovigliarsi di corpi in un gran polverio di rena. Finalmente il biondo, che pareva il più agile, si distaccò dal mucchio e si levò in piedi agitando trionfante per aria la seconda scatola di sigarette. Si levarono uno per uno anche gli altri, e per ultimo Berto. Tutto il suo brutto viso lentiginoso era contratto da un intenso furore. «Cani! Ladri!» gridò agitando il pugno e singhiozzando. Lagrimava con rabbia, e ad Agostino faceva un certo effetto strano e nuovo vedere il suo tormentatore a sua volta tormentato e trattato non meno spietatamente di quanto avesse poco avanti trattato lui. «Cani! Cani!» gridò ancora. Il ragazzotto gli si avvicinò. Gli lasciò andare un ceffone che suonò secco e fece saltare di gioia gli altri compagni. «La vuoi smettere, sì o no?» Berto, come forsennato, corse all'angolo della baracca, si chinò, afferrò con le due mani una pietra enorme e la scagliò contro il suo nemico, il quale si scansò leggermente con un fischio di derisione. «Cani!» gridò ancora Berto singhiozzando e tuttavia tenendosi per prudenza dietro l'angolo della baracca. Singhiozzava grosso, con una furia persino nel pianto, in cui pareva sfogarsi non si capiva che amarezza volgare e ripugnante. Ma i compagni già non si occupavano più di lui. Si erano di nuovo sdraiati sull'arena. Il ragazzotto apriva la scatola di sigarette e così il biondo. Ad un tratto l'uomo seduto al tavolino, che aveva assistito a questa rissa senza far motto, disse: «Datemi quelle sigarette». Agostino guardò l'uomo. Era grande e grosso, pareva avere un po' meno di 50 anni. Aveva una testa sorniona e freddamente benevola, calvo, con la fronte curiosamente conformata come una sella, i piccoli occhi ammiccanti, il naso rosso e aquilino, le narici scoperte e piene di venuzze vermiglie ripugnanti a vedersi. Aveva baffi spioventi e sotto i baffi la bocca un po' storta che stringeva il sigaro. Indossava un camiciotto sbiadito e un paio di pantaloni di cotone turchino. Un pantalone gli scendeva fino alla caviglia, l'altro era rimboccato sotto il ginocchio. La pancia l'aveva cinta con una fascia nera. Ultimo particolare che accrebbe in Agostino il primo ribrezzo, egli si accorse che il saro, così si chiamava il bagnino, aveva in ambo le mani non 5, ma 6 dita, che davano alle mani un aspetto enorme e numeroso, e più che dita parevano tozzi tentacoli. Agostino studiò a lungo quelle mani, ma non gli riuscì di capire se il saro avesse 2 indici, 2 medi o 2 anulari. Parevano tutti di uguale lunghezza, fuorché il mignolo che spuntava un po' fuori dalla mano come un rametto alla base di un tronco nodoso. Il saro si tolse di bocca il mezzo sigaro e ripeté semplicemente: «Allora, queste sigarette?» Il biondo si levò e andò a mettere la scatola sul tavolino. «Bravo, Sandro!» disse il saro. «E se io non volessi darle?» gridò con tono di sfida il ragazzotto. «Dalle, Tortima! Farai bene a darle!» gridarono da più parti varie voci. Il Tortima si guardò attorno, guardò il saro che, le 6 dita della mano destra sulla scatola di sigarette, lo fissava con i piccoli occhi socchiusi, e poi, dopo aver proferito «E sia, ma non è giusto!» si levò e venne a mettere anche lui la scatola sulla tavola. «Ora farò le parti», disse il saro con una voce dolce e affabile. Senza togliersi di bocca il sigaro, strizzando gli occhi, aprì una delle scatole. Prese una sigaretta con quelle sue dita molteplici e tozze che parevano inabili ad afferrare e la gettò al negro. «To, Holmes!» Ne prese un'altra e la buttò ad un altro ragazzo. Una terza la fece volare tra le mani riunite di Sandro. Una quarta la mandò a colpire il viso stolido di Tortima e così via. «Tu la vuoi?» domandò a Berto, che ringoiate le lagrime era tornato zitto zitto a sdraiarsi tra i compagni. Quello, mortificato, accennò di sì, e gli arrivò in volo la sigaretta. Ricevuta ciascuno dei ragazzi la sua sigaretta, egli fece per chiudere la scatola ancora mezza piena, ma si fermò e chiese ad Agostino: «E tu, Pisa, la vuoi?» Agostino avrebbe voluto rifiutarla, ma Berto gli diede un pugno alle costole sussurrandogli: «Chiedila, scemo, si fuma poi insieme!» Agostino disse che la voleva ed ebbe anche lui la sua sigaretta. Il saro allora chiuse la scatola. «E le altre! Le altre!» gridarono tutti insieme i ragazzi. «Le altre le avrete nei giorni prossimi», rispose il saro calmo. «Pisa, prendi queste sigarette e va a riporle nella baracca». Nessuno fiatò. Agostino, assai impacciato, prese le 2 scatole e, scavalcando i corpi distesi dei ragazzi, andò nella baracca ed entrò. La baracca, come appariva, non aveva che una sola stanza, e gli piacque per la sua piccolezza come una casa di fiaba. Il soffitto era basso, di travi imbiancate, le pareti di assi grezze. 2 finestre minuscole ma complete, con davanzale, piccoli vetri quadrati, sportelli, tendine e persino qualche vaso di fiori, diffondevano una luce bassa e smorzata. Un angolo era occupato dal letto, ben rincalzato, con un guanciale bianco di bucato e una coperta rossa, e in un altro c'era un tavolo rotondo e 3 seggiole. Sopra il piano di marmo di un cassettone si vedevano 2 di quelle bottiglie che contengono piccoli velieri o navi a vapore. Le pareti erano tutte coperte di vele agganciate a chiodi, di remi appaiati e di altri attrezzi marittimi. Agostino pensò che dovesse essere molto invidiabile chi possedeva una baracca come quella, così piccola e così comoda. Si avvicinò alla tavola sulla quale era posata una grossa ciotola slabbrata di porcellana piena di mezzi sigari, vi depose le due scatole di sigarette e riuscì fuori nella luce del sole.